Salva Danaio di Deborah Rosciani. E buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. 10 giorni fa è entrato in vigore il decreto legislativo sul federalismo municipale ed è diventato operativo anche il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate necessario per mettere in moto il nuovo meccanismo della cedolare secca sugli affitti, tema del quale abbiamo già parlato, lo ricorderete bene, la scorsa settimana, ma abbiamo ricevuto molte sollecitazioni per occuparcene di nuovo e quindi abbiamo ben pensato di cogliere al balzo l'opportunità che ci ha offerto oggi il Sole 24 ore, vale a dire la pubblicazione della consueta guida pratica del lunedì che oggi, ma lo sarà anche domani, è tutta dedicata appunto alla cedolare sugli affitti, il cui meccanismo applicativo sembra molto semplice nella teoria. In realtà molti contribuenti si stanno davvero lambiccando il cervello per fare il calcolo di convenienza, proprio per capire se è il caso di scegliere la cedola secca, la cedolare secca, o se invece mantenere il regime fiscale tradizionale. Una scelta che tra l'altro va fatta nel momento in cui si registra il contratto d'affitto e visto che è proprio lì che va indicata l'opzione. Quindi ha preso ormai ufficialmente il via una delle novità più attese nell'ambito della riforma federalista, definita peraltro da qualcuno la maggiore novità fiscale del 2011, la possibilità di pagare sui redditi da locazione un prelievo sostitutivo del 19% per i canoni concordati o del 21% invece dell'imposta calcolata con le ordinarie aliquote IRPEF. E tra l'altro il Sole 24 Ore calcola che tale scelta dovrà essere effettuata da almeno 2 milioni di proprietari di immobili, dunque oggi guida alla guida pratica con il nostro Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, che così, tanto perché non ha mai niente da fare, ha coordinato anche questa uscita di oggi insieme ad altri colleghi. Naturalmente Cristiano, ciao, bentornato. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Poi non possiamo farci mancare anche il professionista che sa tutto ciò che è necessario sapere per dare le indicazioni necessarie ai nostri contribuenti che ci vorranno chiamare stamattina all'800 24 00 24. Luigi Lovecchio, dottore commercialista esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie per essere tornato con noi. Cristiano, allora andiamo subito a dare, poi naturalmente avremo anche la nostra scheda che ci riepiloga i termini principali della questione, ma soprattutto spieghiamo ai nostri ascoltatori come sempre è possibile interagire con la guida pratica che esce oggi con il Sole. Certo, la guida in realtà è appunto la guida del lunedì, ma questa settimana è anche la guida del martedì, nel senso che l'abbiamo dovuta dividere in due puntate, con il giornale di oggi in edicola la prima, con il giornale di domani la seconda. E intanto già da adesso e fino alle 12 di domani è aperto il forum online al quale è possibile inviare i propri quesiti, nel caso ci fossero, e sicuramente ce ne saranno, delle questioni che hanno bisogno di un chiarimento specifico al di là delle regole generali che noi abbiamo illustrato. Per inviare i quesiti bisogna collegarsi all'indirizzo internet che è www.ilsole24ore.com/guida cedolare. A questo indirizzo, insomma, ci sono tutte poi le istruzioni da seguire, si possono lasciare le proprie domande. Anticipiamo anche quest'altro strumento molto interessante che il sito del Sole 24 Ore mette a disposizione, il simulatore online di convenienza, perché per calcolare se è più conveniente optare per la cedolare secca piuttosto che mantenere il regime fiscale tradizionale, non è che sia poi così facile mettere dentro, come dire, due voci. E via, ci sono tanti parametri che vanno considerati. Ci sono tante variabili da considerare. Diciamo che c'era già una versione precedente del simulatore che era un pochino più semplificata, da oggi ce n'è una un po' più ricca, un po' più complessa se vogliamo, ma che tiene conto di più variabili. Perché una prima differenza da considerare è che la cedolare secca appunto ha un'aliquota che è uguale per tutti i contribuenti, il 19% se il canone è concordato, il 21% l'hai detto tu prima se il canone è di mercato. Un'aliquota piatta. Un'aliquota piatta, esatto. Però c'è una piccola differenza che già è abbastanza sostanziale, che questa aliquota piatta si applica in entrambi i casi su tutto l'importo del canone pattuito nel contratto, mentre se si sta col regime fiscale, diciamo, ordinario, ci sono delle deduzioni forfettarie che fanno sì che la parte di canone incassato dal proprietario su cui si applica l'aliquota sia in realtà più bassa. Ad esempio, se il canone è libero, l'imponibile effettivo è pari all'85% del canone e non al 100%. Quindi da un lato io ho un'aliquota che va dal 23% al 43%, che sono appunto le aliquote marginali, applicata sull'85% del canone. Dall'altro ho un'aliquota marginale che è del 21%, quindi più bassa, ma applicata su tutto il canone. Poi non è finita, perché questa aliquota piatta, diciamo, assorbe le addizionali comunali e regionali, che quindi non devo più pagare sul reddito sottoposto a cedolare. Che però non ci sono in tutte le regioni, in tutti i comuni, quindi che, bisogna anche valutare molto, dove si abita, certo. E variano molto, quindi può capitare che in un comune dove le addizionali sono molto alte la cedolare sia più facilmente conveniente, in un comune dove non ci sono non addizionali, ad esempio a Milano non c'è l'addizionale comunale, quindi il discorso può già cambiare un pochino. E poi non solo, l'imposta di la cedolare assorbe anche l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ma se il proprietario le ha già versate, perché ad esempio si è portato avanti in anticipo, non molti lo fanno, ma è possibile quando si stipula un contratto pagare in anticipo l'imposta di registro per tutte le annualità, ebbene questa imposta già versata non viene rimborsata. Non vengono rimborsate. Insomma, tanti aspetti da considerare, non ultimi anche gli aspetti sanzionatori per chi non decide di regolarizzare il contratto d'affitto appunto con l'affittuario, con l'inquilino. Attenzione, perché si va incontro appunto a delle penalità, chiamiamolo così, delle sanzioni comunque molto molto pesanti, che sono tutte ovviamente a carico del proprietario, mentre se ne potrebbe avvantaggiare di questa situazione l'inquilino. Ma tutto questo lo svegliamo dopo. Adesso una sintesi dell'intera questione nella nostra scheda. Dal 7 aprile scorso i proprietari di immobili affittati, circa 2 milioni di persone in Italia, possono dire addio a IRPEF, addizionale comunale e regionale, imposta di registro e imposta di bollo. Al loro posto si pagherà un'unica imposta sostitutiva pari al 21% del canone di affitto, che scende al 19% per i contratti a canone concordato nelle città ad alta densità abitativa. Si tratta dell'ormai famosa cedolare secca, un'opzione facoltativa che permette dunque al locatore di scegliere se passare a questa nuova modalità o mantenere i pagamenti di tutte le precedenti imposte. Per coloro che registrano un nuovo contratto di locazione, l'opzione per la cedolare verrà esercitata direttamente in fase di registrazione. La scelta e la successiva registrazione del contratto possono essere eseguite online usando Siria, il servizio internet messo a punto dall'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece le locazioni già in essere, il locatore indicherà la scelta nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. In questo caso, così come avviene con l'IRPEF, il proprietario dovrà versare l'acconto in due rate. Il 16 giugno, con una maggiorazione dello 0,4% entro il 18 luglio, e il 30 novembre, a meno che gli importi in gioco siano bassi. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta a Salva Danaio, interagire con i nostri ospiti di questa mattina. In alternativa potete scriverci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Luigi Lovecchio, andiamo appunto a chiarire anche altri aspetti rispetto a questa novità molto molto importante. A questo regime della cedolare secca possono aderire solo le persone fisiche, mentre sono esclusi i lavoratori autonomi e le imprese, mi pare, no? Sì, è così, sono le persone fisiche che locano immobili che hanno uso abitativo. Perfetto, allora tutti i nuovi contratti che si stanno d'affitto, che si stanno stipulando in questa fase, che quindi chiaramente sono proprio in corso di valutazione da parte dei proprietari di immobili che stanno cercando di capire qual è il miglior regime fiscale, hanno tempo questi contribuenti appunto per fare una scelta, mi pare fino al 6 giugno? Allora, se il contratto, se la scadenza di registrazione del contratto, ci sono 30 giorni dalla data in cui il contratto è concluso perché venga registrato, se questa scadenza di 30 giorni cade nel periodo che va dal 7 di aprile al 6 di giugno, la scadenza viene automaticamente prorogata fino al 6 di giugno, proprio allo scopo di consentire a tutti gli interessati di valutare la convenienza dell'opzione. Per coloro che invece hanno avuto una scadenza di contratto, per esempio tra gennaio e febbraio? Per quelli che hanno già registrato il contratto, perché se hanno avuto la scadenza vuol dire che l'hanno già registrato, allora l'opzione verrà fatta, come avete ricordato voi nella scheda iniziale, nella dichiarazione dei redditi 2012 per il 2011, quindi la dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo per quest'anno. Però resta fermo il fatto che il contribuente deve versare gli acconti della cedolare già a partire da quest'anno. Ecco, allora, quali sono, visto che lei fa anche il commercialista, Lovecchio, come dire, gli interrogativi più diffusi fra i contribuenti che devono optare per una opzione terribile, comunque fare una scelta per una modalità, per un tipo di regime fiscale piuttosto che per l'altro? Ma ovviamente è proprio, era davvero il calcolo della convenienza, cioè avere chiari, lo avete detto anche voi all'inizio, tutte le variabili che devono essere tenute in considerazione, e quindi insomma riuscire a pianificare con un foglio di carta e una calcolatrice i vantaggi e gli svantaggi della cedolare. Per esempio la rinuncia agli aumenti contrattuali, quello è un elemento che mi pare stia pesando nelle valutazioni, nel senso che ognuno si fa anche i conti in relazione a quello a cui deve rinunciare per optare per la cedolare. Questo perché per optare per in favore di questa imposta sostitutiva il locatore deve previamente comunicare all'inquilino che rinuncia a tutti gli aumenti contrattuali per il periodo di durata dell'opzione. Quindi potrebbe essere che molti affittuari in questo periodo si vedano, Cristiano, recapitare una raccomandata con un contenuto molto interessante: sappi che io fiscalmente ho optato per la cedolare secca, quindi come dire, rinuncio agli aumenti del canone d'affitto, certo, dei prossimi anni. Certo, rinuncio agli aumenti. Il provvedimento delle entrate in questo senso è molto ampio nella dicitura, perché parla di aumenti previsti a qualsiasi titolo dal contratto. Quindi la prima cosa a cui si pensa, ed è probabilmente la più diffusa, è l'aggiornamento in base all'indice Istat, che viene abitualmente previsto in sede di stipula del contratto e poi viene applicato anno per anno, e questa è sicuramente una cosa, ma si deve rinunciare anche agli aggiornamenti che fossero stati eventualmente previsti laddove ad esempio il contratto avesse una sorta di canone con degli aumenti già predeterminati negli anni. È una cosa che ogni tanto succede. In questo caso il proprietario deve sapere che se sceglie la cedolare per tutta la durata in cui egli rimane con la cedolare, non potrà far salire il canone contrattuale rispetto al livello di oggi. Peraltro bisogna anche dire, è importante precisare, per tutta la durata dell'opzione, perché l'opzione per la cedolare non è irreversibile. Non è irreversibile. Quindi negli per esempio anni successivi, chi quest'anno opta per la cedolare è, come dire, ha anche la facoltà l'anno prossimo di ritornare al regime fiscale dell'aliquota IRPEF. Esatto, purché lo decida entro il termine entro cui sarebbe tenuto al versamento dell'imposta di registro annuale, che in quel caso andrà versata perché torna appunto al regime ordinario e quindi deve ritornare a pagare l'imposta di registro. Benissimo, allora abbiamo già in vista la nostra prima pausa di oggi, però forse un ascoltatore possiamo già sentirlo e a mettere in campo già i vostri interrogativi su questa questione, e direi che possiamo... io voglio proprio sentire Alessio dalla provincia di Pisa. Buongiorno Alessio, sentiamo il suo caso, poi rispondiamo buongiorno dopo la nostra pausa. Buongiorno. Allora, brevemente, il mio è un caso un po' complicato, però fondamentalmente io sono affittuario in nero e volevo trovare tutti gli incentivi per far sì che il mio padrone di casa mi facesse un affitto regolare. Certo. Cioè, prima diceva le tasse sono un monte, però insomma a questo giro mi sembra che la cedolare secca sia un ottimo incentivo. E poi non si capisce perché lui non voglia pagare le tasse comunque su questi soldi che gli entrano, detta anche proprio, anche perché l'obiettivo di tutto questo meccanismo è far emergere molto sommerso, Alessio, per cui ci dica, quindi insomma che cosa, che tipo di conversazione ha intenzione di intavolare col suo proprietario? Stavo cercando di capire quali sono tutti gli incentivi da passare praticamente da essere in nero a fare un contratto regolare. Sì, perché cioè, tenendo conto che questa persona qua ha un regime fiscale, mi sembra è proprio il minimo. Va bene. Cioè, ha anche una pensione, cioè quindi... Va bene Alessio, anche perché adesso ci dà l'opportunità, come dire, di metterci proprio dalla parte dell'affittuario, perché noi non stiamo facendo altro che parlare della, ovviamente dal punto di vista del proprietario, quindi certo, qual è il miglior regime fiscale che può adottare, ma invece mettiamoci anche dall'altra parte per capire anche una regolarizzazione di contratto attraverso questo nuovo sistema, appunto, che tipo di vantaggio dà a chi affitta, a chi è all'affittuario, all'inquilino. 800 24 00 24, il numero verde per continuare a prenotarvi. Andiamo in pausa, torniamo tra poco. Allora, oggi Salvadanaio si occupa della cedolare sugli affitti, prendendo a spunto anche tema affrontato settimana scorsa, la guida pratica che esce oggi con il Sole 24 Ore, la prima parte, perché straordinariamente questa volta la guida esce in due volte, oggi e domani. Oggi ci sono tutte le istruzioni per l'uso, appunto proprio per far capire ai contribuenti interessati all'argomento quali sono le caratteristiche di questo nuovo regime fiscale, come si fa a prendere una decisione piuttosto che un'altra, come fare un calcolo di convenienza. esperienza, tutto l'iter appunto per anche rapportarsi correttamente con l'Agenzia delle Entrate, con l'inquilino. Domani invece si parlerà di acconti, come si versano, e anche delle super sanzioni per chi non regolarizza i contratti d'affitto. Allora Luigi Lovecchio, vorrei tornare un attimo a lei prima di andare anche ad esaminare il caso molto delicato dell'ascoltatore di Pisa, perché leggo da un altro messaggio al 349-238-6666 che c'è un po' la percezione che tutta la novità riguardi solo coloro che hanno un contratto d'affitto che va in rinnovo quest'anno. Per esempio, le leggo Roberto che ci scrive: chi ha già un contratto d'affitto deve fare qualcosa, e se tra due anni scade al rinnovo applica la nuova legge, ammettendo che ci sia qualcuno che ha rinnovato lo scorso anno, non è che non debba assolutamente prendere in esame la novità, Lovecchio? No, assolutamente no. Innanzitutto bisogna chiarirsi su che cosa si intende per rinnovo, perché ci può essere il rinnovo del contratto o il rinnovo o pagamento annuale dell'imposta di registro. Cerchiamo di capirci. Quando viene detto che un'opzione può essere fatta anche nel 2012 in sede di pagamento del rinnovo dell'imposta di registro, non si fa riferimento al rinnovo del contratto. Il contratto è lo stesso, ma al momento della registrazione il locatore ha deciso di pagare l'imposta di registro non in un'unica soluzione, ma annualmente. Quindi la risposta è che tutti i contratti in essere, tutti, nessuno escluso, i contratti in essere e persino i contratti che sono stati risolti prima del 7 aprile, ma che hanno avuto uno svolgimento per i primi mesi del 2011, prima del 7 aprile 2011 è la data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla cedolare, sono tutti potenzialmente interessati all'applicazione di questa imposta sostitutiva. Ripeto, gli unici paletti sono che deve trattarsi di una locazione ad uso abitativo, che il locatore non deve essere né un imprenditore, non deve agire nell'esercizio di impresa né di arti e professioni, e quindi al di fuori di questi due paletti, quindi locatore persona fisica o privata, immobile ad uso abitativo, al di fuori di questi due paletti non ci sono altre cause ostative, quindi tutti i contratti in essere. Il fatto che sia in rinnovo, non sia in rinnovo, scada, risolve, eccetera, serve esclusivamente a individuare il momento in cui si può effettuare l'opzione, ma non escludere dall'ambito del regime dell'opzione. Allora, tra l'altro stavo guardando invece un'altra domanda molto interessante di Cristina da Genova, che chiede se è vero che aderendo alla cedolare secca, che secondo appunto delle simulazioni fatte nella maggior parte dei casi potrebbe risultare molto più conveniente che il tradizionale regime IRPEF, se è vero che aderendo alla cedolare secca si rinuncia anche alle detrazioni fiscali per ristrutturazione. Cristiano? No, diciamo che questo è un punto delicato, non è che si rinuncia, però può capitare un problema con le detrazioni, nel senso che nel momento in cui si decide che il reddito da locazione, quindi il canone che io incasso dal mio inquilino, viene assoggettato alla cedolare secca, essendo questa un'imposta sostitutiva, quel reddito fuoriesce un pochino dai parametri, diciamo, ordinari, viene messo come fosse un po' da parte. Quindi sulla cedolare vera e propria io non potrò andare a sottrarre le detrazioni che io ho. Ad esempio, se io ho una cedolare che pago per pari a 500 euro, se ho altri 500 euro di imposta lorda, che sarebbe, diciamo, la mia IRPEF che pago sul mio reddito, ad esempio la pensione, e in più ho poi 2000 euro di detrazione del 55%, io non posso andare a detrarre quei 2000 euro dalla cedolare, quindi i 500 euro di cedolare li pago, e poi sul resto avrò quello che si chiama il problema di incapienza, cioè avrò una detrazione che è più grande dell'imposta che io devo al fisco. Però mi sembrano dei casi che possono essere assolutamente limitati. Sono casi che sono innanzitutto limitati, che vanno valutati, diciamo, prima con l'assistenza del proprio commercialista, del professionista. Se io so di aver fatto dei lavori piuttosto importanti, so di avere un'imposta molto bassa, devo stare attento che potrei, diciamo, perdere parte o tutta la detrazione in virtù di questo meccanismo. Allora, Luigi Lovecchio, dobbiamo affrontare il caso di Alessio da Pisa, che potrebbe anche essere rappresentativo di una casistica molto più ampia. Abita in una casa, ovviamente gli è stata data in affitto, ma non ha un contratto regolare, paga in nero. Ho utilizzato questa bruttissima parola in diretta, però insomma è probabile che non sia l'unico in tutta Italia. Allora, che cosa deve fare per mettere alle strette il suo proprietario? Prima cosa, magari portargli il Sole 24 Ore di oggi e dirgli: guarda un po' che bella novità che c'è, oppure aspettarlo al varco fino al 6 giugno e il 7 andare a fare una visita all'Agenzia delle Entrate per denunciare questa situazione? Ma diciamo, questa situazione che ha descritto l'ascoltatore è proprio fotografata in alcune disposizioni specifiche della norma sulla cedolare, peraltro ce ne occuperemo domani sulla guida di domani del Sole. C'è una disposizione estremamente penalizzante per il locatore dal punto di vista civilistico, perché contiene delle penalizzazioni di carattere civilistico, quindi che si aggiungono alle violazioni tributarie. Questa disposizione prevede semplicemente che se l'inquilino di sua iniziativa si rivolge all'Agenzia delle Entrate e dimostra che ha in corso un contratto di affitto in nero, sottoponendo a registrazione ora il contratto di abitazione, il contratto d'uso abitativo in nero, l'inquilino ottiene i seguenti vantaggi. Innanzitutto, la decorrenza del contratto inizia dalla data della registrazione volontaria o d'ufficio di questo contratto. Quindi io ho diritto a permanere nell'abitazione in cui già ero per 4 anni a partire da oggi. Mi prendo anche gli ulteriori 4 anni di rinnovo automatico, sempre calcolando la decorrenza iniziale da oggi, cioè da quando sottopongo a registrazione questo contratto. Ma la parte ancora, diciamo, più interessante dal punto di vista dell'inquilino è che mi viene determinata d'imperio il canone di affitto, mi viene determinato d'imperio il canone di affitto in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile. Cioè io, a partire da quando registro il contratto in nero, ho diritto a rimanere sostanzialmente per 8 anni con un canone di affitto pari al triplo della rendita catastale, un canone annuo di affitto pari al triplo della rendita catastale. In genere sono delle cifre molto basse. È estremamente basso. Quindi io credo che, insomma, i casi sono due: o io, inquilino, non ho interesse a mantenere buoni rapporti col proprietario e allora, come si diceva prima, aspetto il 6 di giugno, il 7 di giugno lo denuncio all'Agenzia delle Entrate e quindi subirà tutte queste conseguenze. Io mi sono preso il diritto di stare in una casa principesca pagando 4 soldi. Oppure io, inquilino, voglio mantenere un atteggiamento collaborativo. Allora, se voglio mantenere un atteggiamento collaborativo, posso segnalare che tutte queste conseguenze negative che abbiamo appena elencato non trovano applicazione se il contratto viene registrato spontaneamente, mettiamolo così, entro il 6 di giugno, perché sono previsti 60 giorni dal 7 di aprile per sottoporre a registrazione il contratto in nero. Quindi se si sfrutta questa finestra temporale fino al 6 di giugno si possono evitare queste penalizzazioni. Infatti, aggiungo semplicemente l'ultima considerazione doverosa: la registrazione del contratto entro il 6 di giugno, per come è scritta la norma, a me sembra chiarissimo, non evita le eventuali sanzioni tributarie per illeciti commessi in negli precedenza. Anni pregressi. Ah, ecco. Quindi, se io ho omesso di indicare il canone di affitto per il 2008, per il 2009, per il 2010, non me la cavo sottoponendo a registrazione il contratto adesso entro il 6 di giugno, ma se lo faccio poi devo anche aspettarmi delle conseguenze di carattere tributario. L'unica cosa che possiamo dire è che io ho motivo di credere che il proprietario della casa dove sta Alessio da Pisa non è che non sia a conoscenza di tutto questo fermento legislativo che lo obbliga appunto a regolarizzare il contratto con Alessio. Detto questo, Cristiano, un altro pericolo che si corre, ma non lo so, è che magari questo proprietario, non volendo sentir parlare di nessun tipo di regolarizzazione, lo metta alla porta e gli dica: vabbè, gli dice, se sei stato in queste condizioni, ti sono state bene fino a questo momento, arrivederci e grazie, io adesso la voglio tenere vuota. Beh, quello Potrebbe succedere, però sono cose che diventano poi anche un po' complesse, perché da un certo punto di vista il contratto civilisticamente, per quanto non registrato e non noto al fisco, in qualche modo esiste, quindi si rischierebbe poi magari di avviare anche un contenzioso. Quindi diciamo che in ogni caso chi ha fatto la scelta di affittare una casa in nero, e queste sanzioni di cui parlava Luigi Lovecchio valgono anche se il contratto è parzialmente in nero, quindi se, come spesso si fa, magari lo si è registrato per una cifra di comodo, per una cifra un po' più bassa, lasciando quindi magari un fuoribusta, diciamo, in contanti, ecco, queste cose valgono lo stesso. Ecco, il proprietario che abbia fatto che si trovi in una situazione del genere, oggettivamente oggi può solo scegliere tra la padella e la brace, diciamo, perché è vero, potrebbe anche dire io continuo a restare in nero, però a quel punto dal 7 di giugno si espone al rischio della denuncia dell'inquilino e ha in aggiunta il rischio dell'accertamento sugli anni pregressi. Se invece registra il contratto, evita almeno di trovarsi un inquilino che per 4 anni, prorogabili di altri 4, rischia di rimanere in casa con un affitto irrisorio. E poi, se ha goduto di affitti in nero, a un certo punto rischierà anche di avere l'accertamento. Però questo rientra, diciamo, nell'ordine delle cose, altrimenti il regalo sarebbe troppo grande, voglio dire. Allora, abbiamo tanti altri ascoltatori, tra l'altro c'è anche tutto il tema molto interessante che pure nella puntata della scorsa settimana non siamo riusciti ad affrontare minimamente, che è quello dei contratti turistici, contratti transitori, un tema che ci porrà Franco da Grosseto. Gli chiedo solo un minutino di pazienza perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, tra poco. Allora andiamo, sì, avevo promesso, non l'avevo promesso, era da tanto che aspetta, Franco da Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Senti, io volevo chiedere questo, io posseggo una casa al mare e se quest'anno per alcune settimane la vorrei affittare quando non la usufruisco io, si può applicare questa cedolare secca e sapere come ci si deve comportare, se c'è degli stampati per fare la ricevuta, queste cose? Ah, grazie mille Franco. Allora andiamo a Luigi Lovecchio. Sì, diciamo che se il contratto non ha durata complessiva superiore a 30 giorni, non vi è obbligo di assoggettamento a registrazione del contratto. Questo riguarda, ripeto, i contratti che nel corso di un anno non hanno una durata superiore a 30 giorni. Questo significa che l'opzione per l'imposta sostitutiva può essere fatta nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo, del 2012 per il 2011. Quindi ipotizziamo che ad agosto l'ascoltatore voglia affittare la propria casa al mare e affitti e stipuli questo contratto di locazione per una durata che non è superiore a 30 giorni, non c'è obbligo di registrazione del contratto, il momento di esercizio dell'opzione è la dichiarazione dell'anno prossimo. No. Nulla vieta che si applichi la cedolare anche in questo tipo di fattispecie. È solamente, diciamo, la differenza è il momento della dichiarazione dell'opzione. Esatto, se ci fosse stato l'obbligo di effettuare la registrazione, in quel momento andava fatta l'opzione. Lovecchio, tra l'altro, optando fin da ora per la cedolare secca in sostituzione appunto dell'aliquota IRPEF, quando va versata, quando va pagata e con che modalità? Sì, la cedolare va versata esattamente con le stesse modalità e negli stessi termini dell'IRPEF, il che significa che si deve pagare un importo pari complessivamente all'85% della cedolare dovuta per tutto l'anno. Quindi io prima faccio il conto di quant'è la cedolare su tutto il canone di affitto. Quindi c'è un acconto e un saldo? Dopodiché c'è l'85% di questo importo va pagato nel corso del 2011 con questa tempistica, il 40% va versato entro il 16 di giugno, il restante 60% va pagato entro il 30 di novembre. Ricordo che sono previste le stesse regole di rateazione dell'IRPEF, quindi nel pagare questo importo di cedolare posso utilizzare la medesima disciplina di rateazione dell'IRPEF. Prima fra tutto, lo avete ricordato voi nella scheda illustrativa all'inizio, la possibilità di differire la prima rata del 40% al 18 luglio con una maggiorazione dello 0,4%. Con un ravvedimento. Il pagamento si effettua in F24 e segnalo, questa è una importante insomma, precisazione da fare che si paga in S24 anche per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, cioè che hanno presentato il modello 730 al CAF e che si vedono trattenere l'imposta dal datore di lavoro. La cedolare non viene quest'anno trattenuta dal datore di lavoro, ma sarà il dipendente che dovrà andare in banca, compilare il modello S24 e pagare l'imposta. Ecco, poi se riusciamo dovremo anche spiegare quali sono le modalità della registrazione del nuovo contratto con cedolare, perché è una modalità che ha caratteristiche online e va fatta solo online. C'è questo software che si chiama Siria, ne abbiamo parlato tanto martedì scorso, appunto chiamando, evocando anche la nota cantante, ma insomma questo non c'entra niente. Andiamo a sentire Gianfranco da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, perché dalla una lettura della norma letterale sembrerebbe che non si applica a tutti i professionisti, non solo se agiscono nell'esercizio della professione, un affittacamere, un bed and breakfast, ma in teoria anche per beni propri. Allora, aspetti lì Gianfranco che andiamo di nuovo da Luigi Lovecchio. Luigi, ha capito la domanda? Sì, Insomma, ho davanti a me la norma, è l'articolo 3,6 del decreto legislativo 23 del 2011 e dice non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni, ma nell'esercizio di arti e professioni. Quindi, insomma, io la leggo in maniera un po' più ampia, deve essere un immobile che in qualche modo rientra nella sfera professionale del lavoratore autonomo, e allora se lo affitto non posso beneficiare della cedolare, ma non qualsiasi immobile che possiede un lavoratore autonomo solo perché è posseduto da un professionista. Chiaro. Andiamo a Giacomo da Bari. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Buongiorno, complimenti per la trasmissione e per la chiarezza degli interventi che ci sono stati. È vero, sì, ho degli ottimi ospiti, è vero. Complimenti veramente a lei e agli ospiti. Grazie. Rapidissimamente, perché l'argomento è interessantissimo, finalmente una bella norma per i contribuenti onesti, ma un po' di confusione onestamente. Prima domanda, a banca o società o qualunque tipo di società, per esempio una confederazione, che utilizza l'immobile per esclusivo uso abitazione di dirigente. È chiaro? Chiarissimo. Cioè io affitto ad una banca, la banca dice questa, quindi mi paga la banca, però l'immobile è adibito. Infatti, lei affitta ad un'impresa e poi questa impresa affitta a suoi dipendenti, quindi a persone fisiche. Diciamo, questo è un po' il circolo. Lo concede a persone fisiche. Lo concede. Esattamente. Di volta a volta designate per un anno un dirigente, per uno. Quindi rientra nella cedolare secca. Prima domanda. Seconda domanda. Fitto a studenti, appartamento regolarmente fittato per camere a studenti con contratto regolarmente registrato, ritengo che rientri nella cedolare secca. Sì. Terza domanda, se posso. Ci può essere la coesistenza nell'ambito della cedolare secca di aliquote a canone concordato e aliquote libere? Nel senso che lei mi insegna che il canone concordato non viene fatto in tutte le città d'Italia. In alcune città d'Italia non esiste. Quindi, siccome io mi trovo nella situazione di avere appartamenti in città con canone concordato, in città senza canone concordato, è possibile la coesistenza? La ringrazio. Benissimo, grazie. Grazie anche a lei per la chiarezza delle domande che ci permettono appunto di affrontare una casistica piuttosto ampia. Allora, ritorniamo a Luigi Lovecchio per la prima questione. Lui affitta il suo immobile ad una banca che a sua volta concede questi appartamenti a propri dirigenti, a propri dipendenti. Come si deve regolare l'ascoltatore di Bari? Su questo problema è stato sollevato infatti un dubbio da alcuni operatori del settore. Io francamente ritengo che quando la norma dice che la locazione non deve essere effettuata nell'esercizio di impresa, si rivolga esclusivamente al locatore, non anche al locatario. Cioè la ratio di quella disposizione è che se chi loca l'immobile è un imprenditore, il reddito che consegue non è un reddito fondiario ma è un reddito di impresa. Come tale non può essere sostituito dalla cedolare, perché la cedolare sostituisce l'IRPEF sul reddito fondiario. Ne consegue, secondo me, insomma, io mi sento di poter sposare questa tesi, che quello che conta non è il locatario, la condizione del locatario, ma la condizione del locatore. Quindi la risposta è che secondo me sì, quella fattispecie che ha descritto l'ascoltatore può beneficiare dell'applicazione della cedolare. Passo alla seconda e terza. Andiamo senz'altro al contratto per gli studenti, sì. Contratto per studenti sicuramente sì, si tratta di immobili ad uso abitativo, quindi nulla questio, e sicuramente sì anche la terza risposta, la terza domanda, cioè la coesistenza di aliquote a canone concordato e a canone libero. Quindi permetto solo di fare una piccolissima precisazione, la cedolare, l'opzione per la cedolare si esercita per ciascun immobile e per ciascun contratto, quindi io posso avere una pluralità di immobili. Immobili disseminati in tutta Italia, ognuno potrà essere gestito in maniera radicalmente diversa, cioè nelle due opzioni, ecco. Esatto. Cristiano, sì. Sì, possiamo aggiungere anche una piccola precisazione, che nel caso ci fosse un immobile che è cointestato, pensiamo ad esempio a marito e moglie che sono proprietari di un immobile al 50% che viene affittato, al marito la cedolare conviene, magari alla moglie che ha un reddito molto basso non conviene, possono anche effettuare una scelta distinta, cioè uno dei comproprietari la sceglie, l'altro no. In questo caso ci sono delle particolarità da tenere presenti, nel senso che dovrà essere utilizzato per la registrazione di questo contratto, se l'opzione avviene in sede di registrazione, il modello cartaceo 69 e non il software Siria, ma è possibile. Ah, ecco, magari in 30 secondi, Luigi Lovecchio, che cos'è il software Siria? Va bene, è il software, è un modello e un software che servono per la registrazione iniziale dei contratti di locazione e che servono per comunicare l'opzione iniziale per la cedolare secca, per l'imposta sostitutiva. È un modello semplificato, diciamo, perché prevede alcune condizioni perché venga utilizzate, sono le condizioni indicate nello stesso modello, nello stesso decreto di approvazione, quindi il numero di locatori non deve essere superiore a 3, tutti i locatori devono esercitare l'opzione per la cedolare, il numero di conduttori, eccetera, eccetera. Insomma, è un modello semplificato che serve a fare la prima registrazione del contratto e ad optare per l'imposta sostitutiva. Per la cedolare secca, e tra l'altro tutta la compilazione mi sembra che sia anche assolutamente guidata, non dovrebbe essere particolarmente complessa. Per tutto ciò che non abbiamo detto, le cose saranno tante, vi invito a prendere oggi e domani la guida pratica del Sole 24 Ore, collegarvi sul sito www.ilsole24ore.com/cedolare, inviare i vostri quesiti ai tantissimi esperti che il Sole ha messo a disposizione, domani le prime risposte sul Sole, poi a partire da dopodomani tutte le risposte ai vostri quesiti sul sito del Sole 24 Ore. Ma se volete continuate a scrivere anche a noi, grazie a Cristiano Dell'Oste, a Luigi Lovecchio per averci tenuto compagnia questa mattina, torniamo domani, buona giornata.